A música, a música me faz cantar, canta com ela, chuta com a ribarra. A música, um borramai, barimo insieme, fino all'alba di giorni. Vida di volte un corri a musica o vento che mi porta l'ardori. A musica mi fa ricompare, canta con me l'asciutto che riparrà. A musica un vorrà mai, parimo insieme fino all'alba di giorni. A musica mi pare campa, canta con me l'asciutto che riparrà. A musica un vorrà mai, parimo insieme fino all'alba di giorni. Tutti insieme cantiamo, non c'è più paura, un ritmo di avido, attito di cuore, a musica e a forza, un nostro amore. A musica mi fa campare, canta con me, l'asciutto che riparrà.